Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Benvenuti ad Europa Europa da Gigi Donelli, ma anche da Alessandro Schirano, da Roberta Frisani, la nostra regista. E innanzitutto buon 9 maggio a tutti voi. 9 maggio è il giorno europeo o festa dell'Europa. Infatti oggi si ricorda il giorno del 1950 in cui vi fu la presentazione da parte di Robert Schuman del piano di cooperazione economica ideato da Jean Monnet ed esposto nella dichiarazione Schuman, appunto, che segna l'inizio del processo di integrazione europea con l'obiettivo di una futura unione federale, data che però coincide anche con il giorno de facto che segna la fine della Seconda Guerra Mondiale. Infatti il 9 maggio è il giorno successivo alla firma della capitolazione nazista in mano sovietica, quando furono catturati Hermann Göring e Viktor Quisling. Insomma, una giornata importante fu la caduta definitiva del nazifascismo, che veniva celebrato nell'URSS e viene ricordato ancora oggi in Russia. Oggi infatti grande festa, il Dien Pobiedi per i russi. Ma vediamo noi l'Eurogruppo. L'Eurogruppo, lo avete sentito, ha dunque trovato un accordo sul MES, la notizia nel pomeriggio di ieri. Lo avete sentito ampiamente nei nostri giornali radio, sicuramente lo risentirete nel prossimo, l'appuntamento con GR24 delle 13, e comunque avremo modo di approfondire i dettagli di un accordo che, lo ricordiamo, dovrà essere ora formalizzato con, come sempre, con i meccanismi UE dalla riunione dei capi di Stato e di Governo prossima ventura. Ieri ancora un intervento all'Europa Day, appunto, della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Finora, ha detto, l'Unione Europea ha mobilitato più di 3.000 miliardi di euro per sostenere le persone, le aziende e l'economia nei nostri Stati membri, ha aggiunto, è la risposta economica più imponente al mondo. L'Unione Europea, ha aggiunto von der Leyen, aiuterà le persone a mantenere l'impiego sostenendo il lavoro a orario ridotto, e ha aggiunto, stiamo mettendo a disposizione 100 miliardi di euro per questo modello simile alla cassa integrazione. Altre notizie di una settimana come sempre intensa ci portano in Polonia. Le presidenziali, fermato in extremis il voto di domani, 10 maggio, avrebbe dovuto esserci, lo hanno annunciato il capo del partito al potere, il PiS, Diritto e Giustizia, il capo è Jarosław Kaczyński, e il suo alleato Jarosław Gowin. Gowin in particolare, 59enne cracoviano, accusato dall'opposizione di centrosinistra di essere il ministro talebano del conservatorismo cattolico in Polonia. La data e il ricorso al voto per corrispondenza erano stati contestati dall'opposizione nel timore di brogli. Ora, Diritto e Giustizia rivendica la decisione come prova della tenuta della coalizione conservatrice, che a sua volta accusa gli avversari politici di avere cercato di avvelenare il clima del paese. Una posizione espressa che noi riportiamo dal deputato del PiS Przemysław Czarnek, appunto, deputato al Sejm, dunque al Parlamento di Varsavia, per Diritto e Giustizia. Mi congratulo con tutti voi. Gli incendiari dell'opposizione hanno cercato di drammatizzare questa vicenda con l'obiettivo di destabilizzare la politica e il paese. Ho sempre pensato che i colleghi della destra unita avrebbero dimostrato senso di responsabilità, e questa decisione di rinvio del voto dimostra proprio questo. La coalizione conservatrice è unita e pienamente decisa a portare avanti la sua missione di governo. La libera circolazione delle merci e delle persone in Europa, l'essenza stessa del sistema europeo, tutto da lì è nato, e oggi, come dire, di fronte a una crisi come quella della pandemia di Covid-19, ci accorgiamo quanto ci manchi appunto quella libertà. Naturalmente la ripresa, o fase 2 che dir si voglia, avviene con ritmi diversi a seconda dei paesi. Allora sentiamo in questo servizio di Laura Bettini qual è il punto della situazione. La fase 2 in Francia inizierà lunedì prossimo, ha confermato il premier Philippe, ma restano in rosso la regione d'oltremare di Mayotte e quella di Parigi, l'Île-de-France. Qui le scuole non riapriranno, nel resto del paese invece la maggioranza degli istituti potrà riaccogliere gli studenti su base volontaria e a partire dalle primarie. Le frontiere però resteranno ancora chiuse ai partner europei fino almeno alla metà di giugno, dice Parigi. Tornare alla normalità di Schengen sarà difficile, ammette la commissaria europea agli affari interni Johansson. E quando si riaprirà, aggiunge, non si dovranno fare discriminazioni tra cittadini europei. Presenterà la fase 2 lunedì il premier britannico Johnson. E anche in Gran Bretagna sarà probabilmente differenziata per aree geografiche. Al governo spagnolo chiede di riaprire la regione di Madrid, sebbene più colpita, mentre quella di Barcellona ha presentato un piano più cauto. Riaprono intanto ai turisti alberghi e ristoranti in Slovacchia e nel land tedesco dello Schleswig-Holstein sul Baltico. La Grecia invece ha scelto il 18 maggio per la riapertura dell'Acropoli e degli altri siti archeologici. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ritornare a muoversi, farlo liberamente, farlo all'interno dello spazio europeo naturalmente, ma non solamente. Proprio in queste ore di fatto si stanno prendendo le misure, si parla del 15 giugno come nuova data di transizione o magari di liberazione. Le app potrebbero proprio essere la chiave per permettere di riprendere viaggi transfrontalieri, ma su questo sentiamo il punto di Silvia Bernardi. App di tracciamento sì, app di tracciamento no. I paesi europei stanno adottando strategie diverse in merito all'utilizzo degli strumenti di tracciamento per il monitoraggio del Covid-19. La prima ad utilizzarla è stata la Corea del Sud nel tentativo di prevenire e contenere la diffusione del virus. Poi è stata la volta di Singapore con la sua app che tramite connessione Bluetooth notifica gli utenti se si sono trovati nelle vicinanze di qualcuno positivo al virus. Infine è arrivata l'Europa con i suoi problemi di privacy e di diversi livelli di digitalizzazione. In Europa gli strumenti di tracciamento devono corrispondere a questi parametri: anonimato, volontarietà, no alla geolocalizzazione, sì al Bluetooth e alla interoperabilità tra paesi. Per la vicepresidente della Commissione europea, ora queste sono le linee guida per gli stati membri per sviluppare applicazioni utili nel rispetto della privacy. Le applicazioni di questo tipo, prosegue la vicepresidente, possono ricoprire un ruolo di primaria importanza nel contrasto e nel monitoraggio del Covid-19. Ma queste tecnologie non avvieranno un'era di controllo. Eppure queste app potrebbero costituire un passaporto per muoversi da uno stato all'altro. La stessa Commissione europea ha detto che potrebbero salvaguardare i viaggi transfrontalieri e diventare una possibile soluzione per salvare il turismo. Per questo la questione della compatibilità e dell'interoperabilità resta prioritaria. Ma nonostante gli appelli di Bruxelles a un approccio comune e il no alla geolocalizzazione, ogni paese europeo procede con i suoi standard e alcuni, come Cipro, Finlandia e Repubblica Ceca, utilizzano comunque il GPS. In Francia l'app si chiama Stop Covid ed è sviluppata nell'ambito di un progetto europeo realizzato in collaborazione con la Germania. Deve essere pronta per il parere del Parlamento entro l'11 maggio, data prevista per la fine della quarantena. La Spagna punta su un'unica app europea e l'Italia, per il tracciamento dei contatti, sta sviluppando Immune, che non è ancora pronta e lo sarà a cavallo di fine mese, come dice il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Domenico Arcuri. Intanto la fase 2 sta partendo in tutta Europa, anche senza app. Magari se ne riparla per la fase 3. Silvia Bernardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Aspettando dunque nuovi momenti e maggiore libertà, purtroppo facciamo i conti con dei numeri pesanti / pesantissimi. Parlo di turismo in primo luogo. In settimana i numeri del comparto turistico italiano, meno 92% gli stranieri, meno 85% gli italiani, ma questo era già marzo, e poi 99,1% degli stranieri, insomma una cosa davvero mai vista, un vero e proprio tracollo per quello che è un'industria di grande importanza nel nostro paese, ma non solo. Di questo parliamo nella seconda parte di Europa Europa, un nostro approfondimento subito dopo l'aggiornamento appunto per chi è in viaggio. Un luogo comune